Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Dopo le recenti elezioni francesi, l'Europa aspetta un po' col fiato sospeso altri almeno due appuntamenti: le elezioni in Germania, quelle in Italia e in mezzo probabilmente quelle in Austria. Forse di tutte queste elezioni la maggiore incognita è proprio l'Italia, anche perché c'è il paradosso di un partito della sinistra democratica che sta meglio che altrove. In Francia abbiamo visto i risultati che hanno avuto i socialisti, che ha appena ritrovato un leader e che si presenta ora alle elettorato a fronteggiare le spinte populiste. Avrà questa sinistra democratica italiana frecce nel proprio arco per sconfiggere appunto il populismo? Quali saranno le piattaforme, le idee, i progetti con i quali il PD potrà convincere l'elettorato italiano? Un approccio problematico a questa questione la offre uno studioso non certo conservatore che in questi anni ha approfondito appunto il tema del rapporto della sinistra italiana con quella che dovrebbe essere il suo popolo, un rapporto sempre più complicato, contraddittorio, al punto che, come noto, molti lavoratori ormai non votano più, come sappiamo, Partito Democratico, come del resto molti loro colleghi negli Stati Uniti hanno votato Trump o in Francia per la signora Le Pen. Lo studioso dunque Luca Ricolfi, sociologo a Torino, editorialista del Sole 24 Ore, che scrisse qualche anno fa un libro dal titolo esplicito Perché siamo antipatici, dove il noi si riferiva alla sinistra. Adesso pubblica Sinistra e Popolo, il conflitto politico nell'era dei populismi, è pubblicato a Longanesi, 282 pagine, 16,90 €. Con coraggio anche in certi punti e sempre con rigore scientifico, anche qui Ricolfi smonta molti luoghi comuni sui quali la sinistra continua a cullarsi, salvo poi scoprire che il popolo che dovrebbe rappresentare va in tutt'altra direzione, per colpa, secondo Ricolfi, dell'incapacità di capire che cosa sta succedendo nel mondo e dell'ostinazione a leggere la realtà con le lenti deformanti, ora che non c'è più l'ideologia della correttezza politica che allontana irreparabilmente la sinistra dai desideri, bisogni e le esigenze della gente comune. Una prospettiva naturalmente che non è solo italiana, che non è neanche nuovissima. Vi ricordate qualche settimana fa quando parlavamo con Pane Bianco dello studio di Aron sugli intellettuali, ma che rischia di mettere certamente a repentaglio la democrazia italiana. Di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera Luca Ricolfi. Buonasera. Luca Ricolfi, lei riprende questo libro da dove aveva lasciato la sua precedente riflessione nel libro precedente Perché siamo antipatici e sottolinea qui come la separazione della sinistra dai ceti popolari, l'incapacità di parlare il linguaggio della gente comune, cito dal suo libro, la credenza nella superiorità etica delle proprie idee, siano ancora oggi più diffuse di quanto allora riuscissi a cogliere. E quindi ripropone anche questa differenza, la differenza che ci dovrebbe essere fra destra e sinistra, la ripropone questa differenza richiamandosi a un confronto, non diretto, insomma, però un confronto di idee tra Bobbio e Hayek, confronto al termine del quale lei sostanzialmente dà ragione più ad Hayek che a Bobbio. Ecco, tutto questo per dire che la sinistra non ha trovato una bussola. Direi proprio che è così, non l'ha trovata, perché la bussola che sembrava aver trovato negli anni 90, adeguandosi, diciamo, all'ideologia del mercato, quella bussola l'ha perduta nel momento in cui la crisi ha rimesso in discussione la capacità dei meccanismi di mercato di creare un'allocazione accettabile delle risorse. E da quel momento direi che non si è ripresa più. Però in questa crisi ha molto pesato, e lei lo spiega bene questo aspetto, il disprezzo, anzi l'odio che c'è stato soprattutto in Italia da parte della sinistra nei confronti della destra. Sì, questa è una forma di autoaccecamento. Io penso che da questo punto di vista il libro di Bobbio, Destra e Sinistra, sia stato molto dannoso, perché ha rafforzato la sinistra nella propria convinzione della propria superiorità morale, ma questa senso di superiorità morale, che è molto sincero da parte delle persone di sinistra, le rende anche cieche di fronte alle buone ragioni degli altri. Questo senso di superiorità morale ha impedito alle persone di sinistra di capire le ragioni degli altri e quindi anche di cambiare la propria posizione politica, la propria linea, le proprie proposte, tenendo conto del sentire della maggior parte della popolazione. E in queste conseguenze funeste, come lei le definisce, la principale è quella che la sinistra sbaglia non tanto a darsi la risposta quanto a porsi la domanda, perché lei scrive non chi siamo, ma come è diventato il mondo in cui siamo. Il primo problema della sinistra non è che non sa dove andare, ma che non capisce dove si trova. Sì, mi sembra che la sinistra non abbia ben capito quanto il mondo è cambiato, soprattutto negli ultimi 20 anni. È cambiato innanzitutto la propria base sociale, cioè la sinistra non ha capito fino in fondo di essere diventata de facto la migliore rappresentante dei ceti medi cosiddetti riflessivi, urbani, istruiti, eccetera. Ma poi mi sembra non abbia neppure capito bene dove è andato il mondo, perché ad esempio, per fare un esempio molto concreto, noi abbiamo da alcuni anni dei flussi migratori molto difficili da reggere, da gestire, e la sinistra questo problema fa come se non ci fosse. Tra l'altro in Italia è aggravato dal fatto che il tasso di criminalità relativo degli stranieri, che in Europa è già molto alto, perché 4-1, cioè uno straniero delinque 4 volte di più di un nativo, in Italia siamo a 6, più di 6 contro 1. Però quando questo problema viene sollevato dalla destra, la sinistra non trova di meglio che dire che sono le percezioni delle persone che sono sbagliate, che in realtà il problema della sicurezza è sopravvalutato dal pubblico, che il pubblico deve rendersi conto che gli immigrati sono una risorsa. Insomma, non vede letteralmente il problema. E questo per una sinistra che avrebbe bisogno di rifondarsi, riorganizzarsi e riconcettualizzarsi è un grave handicap. Però poi la sinistra manifesta molta perplessità, o almeno una crescente perplessità nei confronti, o diciamo una certa sinistra manifesta una crescente perplessità nei confronti della globalizzazione, da cui appunto poi quei fenomeni derivano. E lei nota il paradosso, cioè il fatto che la globalizzazione in realtà accorcia le distanze tra paesi, tra persone, e in qualche modo entra automaticamente in sintonia con tutti i più grandi sogni della sinistra, quelli che lei descrive: il cosmopolitismo, l'apertura delle frontiere, la circolazione delle idee, l'uscita dai paesi arretrati dalla povertà, la diffusione della democrazia, l'avanzata dei diritti umani. Strano questo paradosso, molti uomini di sinistra si oppongono alla globalizzazione che dovrebbe essere in cima alle loro strategie. Ma infatti io penso che su questo la sinistra ha un problema non solo di percezione ma di realtà, nel senso che è difficile negare che la globalizzazione ha ridotto la disuguaglianza globale, anche se si cerca di nascondere questo fatto. Però poi quando si vanno a vedere le statistiche è indubbio che sia i differenziali fra paesi, sia i differenziali fra cittadini del mondo. Se noi immaginiamo il mondo come un grande paese, possiamo calcolare la disuguaglianza. E questi differenziali di reddito, di benessere, di ricchezza sono diminuiti negli ultimi 15 anni. Contemporaneamente però è successa un'altra cosa, e cioè che in alcuni paesi, non in tutti, non in Italia, sono aumentati anche i differenziali, sono aumentati i differenziali interni, mentre i differenziali fra paesi si riducevano, quelli interni in alcuni paesi tipo Regno Unito, ma soprattutto gli Stati Uniti, sono aumentati. E questo spiazza la sinistra, perché la sinistra aveva immaginato che la globalizzazione, l'apertura delle frontiere, il libero mercato potesse aumentare la torta per tutti, cosa che invece a un certo punto ha smesso di succedere, soprattutto in paesi finiti male come Spagna, la Grecia, il Portogallo, l'Italia, non l'Irlanda, perché l'Irlanda invece si è ripresa piuttosto brillantemente dalla crisi del 2011. Parlando di globalizzazione, lei accenna l'ipotesi della stagnazione secolare. Lei ci crede a questo timore? Ma guardi, io ci credo abbastanza, nel senso che nel mio precedente libro avevo fatto un modello econometrico dello sviluppo dei paesi avanzati fino al 2007, cioè fino a prima della crisi, e già mi risultava un forte rallentamento e un probabile arresto della crescita nell'orizzonte di qualche decennio. Questo prima della crisi, quindi a fortiori c'è da essere preoccupati dopo. Però il punto è che intanto anche il mio vecchio modello matematico diceva che l'arresto della crescita ci sarebbe stato, ma in tempi diversi per i vari paesi e a livelli molto diversi. Cioè il reddito cui tende un paese come l'Estonia è un reddito, è il doppio di quello a cui tende un paese come il Messico ed è una volta e mezzo quello a cui tende un paese come l'Italia. E questo dipende dai fondamentali. L'altro discorso è che se guardiamo invece quello che succede in Italia e in Europa, diciamo nei paesi che ci sono più vicini, può anche succedere che alla fine, diciamo, tutti i paesi debbano fermarsi, ma la velocità con cui questo avviene è molto diversa, cioè ci sono paesi che da anni sono usciti dalla crisi, non è che tutti i paesi sono in stagnazione, ci sono un sacco di paesi europei e non europei, e parlo solo dei paesi OCSE, delle realtà avanzate, che invece stanno tranquillamente riprendendo a crescere. Allora probabilmente si fermeranno anche loro, ma magari si fermano tra 30 anni, 40 anni, quando hanno raggiunto un livello di benessere che rende un eventuale arresto della crescita più accettabile. E la cosa interessante è che c'è una variabile che influenza questa diversa capacità di uscire dalla crisi, una sola variabile che spiega quasi tutto. E sa qual è? È l'ampiezza del perimetro pubblico. Cioè i paesi che dopo la crisi del 2008-2009 hanno aumentato il perimetro pubblico, cioè hanno aumentato le tasse, hanno aumentato la spesa, sono tutti paesi che non sono riusciti a riprendersi. Non sono solo i PIGS, ma anche per esempio la Finlandia. La Finlandia è un paese che ha aumentato le spese, le tasse, e non riesce a uscire dalla crisi. Viceversa, i paesi che hanno avuto la forza, anche politica, di ridurre il perimetro pubblico, come il Regno Unito, per esempio, l'Irlanda o la Germania stessa, sono tornati tranquillamente a crescere. Quindi, secondo me, nel lungo periodo può darsi che sia un destino comune di tutti doversi fermare, ma nel periodo breve, nell'orizzonte di 10, 15, 20, 30 anni, ci sarà un'enorme differenza fra i paesi virtuosi che si mettono in condizione di continuare a crescere e quelli che non ce la fanno, come ahimè l'Italia. E a proposito di populismo e di crisi della sinistra, l'elezione del presidente Macron, che è appena entrato in carica, ci può insegnare qualcosa? A me sembra che ci insegnino il contrario di quello che si dice. Cioè a me non ha colpito la vittoria di Macron, a me ha colpito la tenuta della Le Pen. Perché con il livello di demonizzazione che la Le Pen ha ricevuto in Francia, prendere più di un voto su tre, con tutte le forze politiche coalizzate, quasi tutte coalizzate a sostenere Macron, mi sembra un grande risultato per i populisti. Quindi io vedo quello che è successo in Francia come qualcosa di allarmante per chi crede, come io per esempio, credo nell'Europa. Io sono... Avessi dovuto votare, avrei votato Macron, tanto per essere chiari. Però dopo questa vittoria non starei entusiasta a cantare le lodi del vincitore. Sarei preoccupato che abbia vinto con un margine molto, ma molto minore di quello che toccò a Chirac in una situazione analoga, no? Quando nel 2002 la sfida fu fra il padre della Le Pen, Jean-Marie, e Chirac. Allora la santa alleanza dei ben pensanti credo prendere quasi l'80%, forse anche qualcosa di più dell'80% dei voti. Adesso ne hanno preso meno di due terzi. Quindi per me il caso Macron, poi sarà anche importante vedere come andrà a finire, perché Macron adesso è nella luna di miele, ma magari fra sei mesi avrà delle difficoltà. La sua stella potrebbe anche appassire abbastanza rapidamente. L'abbiamo visto noi in Italia con la stella di Monti, l'abbiamo visto con la stella di Renzi, cioè le opinioni pubbliche sono volubili e la luna di miele dura qualche mese di solito, non dura qualche decennio. Vedremo. Grazie a Luca Ricolfi, autore di Sinistra e Popolo. Buona serata. Grazie a voi. E con questo interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Oh. Un libro tira l'altro. E a proposito di politici profetici, sentite queste parole che adesso vi propongo. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths. Questa è la voce di John Kennedy, un famoso discorso che tenne il 27 aprile del 1961, il discorso sulle società segrete, e ve lo propongo perché domani ricorre il centenario della nascita di questo presidente americano, una delle figure più popolari del Novecento, che voglio ricordare qui con un suo libro dal titolo famoso Ritratti del coraggio, che è riproposto da Hawks e tradotto da Henry Fust, introdotto da Gennaro Malgeri, 320 pagine, 24 euro. Questo è il libro del 1950. 56, Kennedy all'epoca era senatore e cominciava già a pensare alla Casa Bianca, che avrebbe poi conquistato quattro anni dopo. In Italia questo libro fu pubblicato da un editore di destra, l'edizione del Borghese, perché, come nota qui il prefattore, questo Kennedy che emerge da questo libro è molto più complesso dell'immaginetta del Kennedy progressista, liberal e buono che gli è stata dipinta addosso. Emerge anzi un Kennedy profondamente realista e soprattutto convinto del pericolo rappresentato dall'Unione Sovietica e dal comunismo. E allora di che coraggio qui parla Kennedy? Di quello sperimentato da otto senatori degli Stati Uniti. E il loro coraggio, scrive Kennedy, stette nel sopportare a rischio della loro carriera l'impopolarità del proprio contegno, le diffamazioni subite, in qualche caso la rivendicazione del loro nome e dei loro principi. E Kennedy aggiunge parole ancora molto attuali anche negli Stati Uniti e spiega efficacemente in che cosa consista l'arte della politica. Vi propongo per esempio queste righe tratte appunto dal libro del presidente Kennedy. Alcuni miei colleghi, criticati oggi per una mancanza di schietti principi o guardati con occhi sprezzanti quali politicanti facili al compromesso, sono semplicemente impegnati nella sottile arte di conciliare, equilibrare e interpretare le forze e le fazioni della pubblica opinione, arte essenziale per tenere unita la nostra nazione e permettere al governo di funzionare. Le loro coscienze possono oggi tanto spingerli a difendere più rigidamente i loro principi, ma il cervello li porta a capire che una proposta di legge discreta o mediocre è meglio di nessuna legge, che soltanto con i do o des del compromesso un progetto legislativo potrà ricevere, una dopo l'altra, l'approvazione del Senato, della Camera, del Presidente e della Nazione. E in questa occasione segnalo anche di Norman Mailer, Nina Wiener e Michael Lennon, John Fitzgerald Kennedy, Superman Comes to the Supermarket, pubblicato da Taschen, 29,90€, 370 pagine, nel quale ritroviamo un famoso reportage dello scrittore Norman Mailer su Kennedy e un saggio che l'autore considerò come una delle molle del successo alle elezioni di Kennedy. E poi qua c'è un'ampia documentazione fotografica con 300 scatti dei maggiori fotografi del l'epoca su Kennedy e l'America di allora. Poi vi ricordo Libra di Don DeLillo, pubblicato da Einaudi, 14 euro, che racconta l'America nella quale sarebbe maturata l'ostilità a Kennedy che poi avrebbe portato al suo assassinio. E quest'ultimo è ricostruito da Philip Shannon in Anatomia di un assassino e Storia segreta dell'omicidio Kennedy, pubblicato da Mondadori, 664 pagine, 14 euro. Oggi abbiamo festeggiato un altro centenario, anzi la centesima edizione del Giro d'Italia che si è conclusa a Milano. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa quando il Giro era partito con un libro basato soprattutto sui luoghi della sua storia. Oggi vi segnalo un altro libro di un giornalista irlandese molto appassionato del ciclismo, dell'Italia, del Giro, che si chiama Colin O'Brien. E il libro si intitola Il Giro d'Italia, una storia di passione, eroismo e fatica. Mondadori, 230 pagine, 22 euro, tradotto da Francesca Cosi e Alessandra Repossi. Qui troviamo i luoghi, alcuni luoghi, per la precisione sei salite, che si intrecciano con i ritratti dei grandi protagonisti del Giro, a partire da Alfredo Binda fino a Marco Pantani. L'autore non nasconde il suo entusiasmo per il Giro, che considera l'evento sportivo più entusiasmante del mondo, che aggiunge si è progressivamente intrecciato con le vicende politiche, economiche e sociali dell'Italia e adesso, aggiunge, dopo un periodo difficile dovuto a qualche scandalo che è successo negli ultimi anni, il giro sta rinascendo per tornare a essere, scrive, agli occhi del pubblico globale, uno degli eventi sportivi più importanti del mondo, nonché un appuntamento fondamentale del calendario ciclistico e non più il preludio italiano all'evento principale che si tiene oltre Alpe, cioè al Tour de France. E troveremo qui la storia e le storie del Giro d'Italia, i mitici antagonismi e le tappe più leggendarie. Parliamo adesso di un altro mito dello sport, ma anche dell'impresa italiana e non solo, Enzo Ferrari, la cui creatura quest'anno compie 70 anni. Vi segnalo alcuni libri che sono usciti. Il primo è di Leo Turrini, che è un giornalista nato poco distante da Maranello, che ha scritto Enzo Ferrari, un eroe italiano, Longanesi, 338 pagine, 18,60 €, che è una riedizione aggiornata e ampliata di un libro uscito già qualche anno fa, nel quale, come pure abbiamo visto già col giro, l'immagine e l'esperienza di Ferrari assumono un valore veramente esemplare del nostro paese. Infatti scrive l'autore all'inizio che riscoprire la figura di Ferrari significa anche recuperare una certa idea dell'Italia. Qua troviamo la carriera, le intuizioni, le avventure imprenditoriali e sportive e anche le disavventure, per esempio raccontato il lungo incidente che Ferrari ebbe col Vaticano, che voleva addirittura che venissero bloccate le corse automobilistiche in seguito ad alcuni gravi incidenti che hanno lasciato molte vittime sul terreno. E un aspetto della personalità di Ferrari emerge anche dal complicato rapporto che ebbe con Ford, che aveva messo gli occhi sul marchio Ferrari. E di questa vicenda vi segnalo alcune righe per segnalare con che animo competitivo Ferrari aveva vissuto questo possibile matrimonio con Ford. Enzo era intenzionato a far capire all'amico di Detroit che una soluzione si poteva trovare, però a patto di non pretendere la sua completa uscita di scena. Al suo pensionamento personale, Ferrari era risolutamente contrario. Aveva superato lo sgomento che aveva accompagnato la perdita di Dino. Aveva deciso. Dalle sue macchine non si sarebbe staccato, mai. Poteva e doveva scongiurare l'ipotesi che l'azienda finisse con lui, questo sì, ma una Ferrari senza Ferrari, no, era inimmaginabile. In America Henry Ford non era stupito. Si era documentato. Tramite l'ambasciata americana in Italia aveva ricevuto un corposo dossier sulle caratteristiche del costruttore. Nel dossier c'era scritto che l'uomo di Maranello era dotato di un'incredibile tenacia, talvolta sconfinante nella testardaggine, e veniva segnalata l'astuzia del personaggio, la sua propensione per i gesti teatrali. Dunque, non era strano che Enzo, mentre intratteneva un dialogo che poteva assomigliare a un negoziato con l'agente di Detroit, avesse deciso di acquistare la sede della Ford a Bologna, quasi a voler dire: «Badate che per il momento sono io a comprare qualcosa da voi». Lo stesso Leo Turrini pubblica ora un libro col figlio di Ferrari, Piero, mio padre Enzo, dialoghi su un grande italiano del Novecento, Liberti, 144 pagine, 13,50 €, che è anch'esso una riproposizione però accresciuta con una nuova conversazione tra i due autori di un libro del 2007 dal quale emerge soprattutto il ritratto umano di un personaggio certamente difficile, a tratti implacabile, che però fu un autentico gigante. E dopo ciclismo e auto parliamo di un'altra passione nazionale, che troviamo nel libro di Gigi Garanzini, Il minuto di silenzio, la storia del calcio attraverso i suoi eroi, Mondadori, 284 pagine, 18 €, dove troviamo una lunga carrellata di campioni presentati in brevissimi ritratti che si leggono ciascuno in un minuto massimo, per i campioni più straripanti, come li chiama l'autore, 2-3 minuti. E sono tutti campioni del passato, magari non troppo remoto, che hanno contribuito a rendere il calcio il gioco di gran lunga più bello del mondo, come lo definisce l'autore. E a questo punto il confettino. Una corsa particolare è quella raccontata da Pier Domenico Baccalario nel libro La corsa dei sogni, PM 190 pagine, 15 €, illustrato da Lam Le Doyen. È una storia fantastica dominata da una sfida con un popolo misterioso che non consentirà al protagonista di fermarsi mai. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Andrea Roccabelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@24.it. E il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.